Europa 24. Buongiorno da Anna Marino. Il Parlamento greco ha approvato le riforme di austerità chieste dai creditori internazionali per avviare un terzo piano di salvataggio, nonostante la forte opposizione del partito del premier Alexis Tsipras. Il piano ha ottenuto 229 voti favorevoli e 64 contrari, mentre 6 deputati si sono astenuti. Un'eredità di dignità e democrazia al mondo. È notte fonda quando Alexis Tsipras prende la parola prima del voto che sancirà il via libera della Grecia all'intesa dell'Eurosummit. Chiedendo di votare nuove misure di austerità, Tsipras spacca il Parlamento in due, tra chi lo applaude, Varoufakis compreso, e chi resta impassibile. Per il Parlamento ellenico, che in un ultimo sgarbo all'Europa vota ben oltre il termine stabilito, una serata vissuta sul filo dello psicodramma. Il ministro delle finanze Tsakalotos, in un discorso dai toni pesanti, definisce quello di lunedì il giorno più difficile della mia vita, un giorno che peserà sul resto della mia esistenza. Mentre la speaker del Parlamento, Zoe Costantopoulos, prima lascia l'emiciclo, poi torna e pronuncia un discorso di fuoco. È un colpo di Stato, un crimine contro l'umanità, un genocidio sociale. È stata uccisa la democrazia, dice. I discorsi infiammati si mescolano nel dramma ateniese con le fiamme vere delle Molotov lanciate dai gruppi anarchici contro la polizia in piazza Sintagma, a margine di un corteo di protesta. A fine giornata si conteranno 50 fermati. A Bruxelles l'Europa cerca intanto un difficile accordo per sbloccare entro il weekend i 7 miliardi di prestito ponte necessari a far sì che Atene onori i debiti passati e futuri. Una riunione dell'ICERPA si è conclusa senza risultati. La Commissione ha confermato l'idea di utilizzare il fondo IFSM per reperire liquidità d'emergenza, anche contro il parere di Londra, Copenaghen e Berlino. Bruxelles propone di attingervi solo temporaneamente, ripagando poi l'esborso coi miliardi del fondo salva stati ufficiale ISM. Oggi alle 10 nuova teleconferenza dei ministri delle finanze dell'Eurozona. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Crescono in modo sostenuto le immatricolazioni auto in Europa. A giugno, secondo i dati ACEA, le nuove vetture immatricolate sono state il 14,8% in più rispetto allo stesso mese del 2014. E dall'Unione Europea stop a vongole troppo piccole, multe salatissime. Il diametro medio delle vongole che popolano il mare Adriatico è di 22 mm, ma l'Europa vieta di commercializzare il mollusco se di dimensione inferiore a 25 mm. Secondo alcuni, per la troppa acqua dolce, il mollusco non cresce abbastanza e chi le raccoglie rischia sanzioni per 4.000 euro. Renata Briano, vicepresidente della Commissione Pesca Europea. Le regole si possono sempre cambiare, però diciamo che la politica della pesca è cambiata negli ultimi anni con la nuova politica comune, per un principio fondamentale che però riguarda tutte le specie, non nello specifico le vongole. Il fatto che il prelievo, diciamo, di tutte le specie ittiche o dei molluschi o anche dei crostacei eccetera, deve avvenire in un'ottica di sostenibilità, cioè preservando quella che è la possibilità riproduttiva e la non diminuzione di quelli che sono gli stock di pesca, si chiamano così, per le singole specie. Poi in autunno si inizierà proprio a discutere dei piani di gestione del regolamento sul Mediterraneo. Questo ci vorrebbe davvero una deroga, so che il Ministero ci stava proprio lavorando e le sanzioni sono davvero un po' esagerate. E in orbita, dopo il lancio di ieri, il nuovo satellite europeo per il controllo del meteo. Si chiude così la serie di satelliti meteo di seconda generazione sviluppati dall'Agenzia Spaziale Europea e realizzati da un gruppo di aziende europee guidate dalla Thales Alenia Space. Ma ci vorranno ancora molte ore. La piena operatività del satellite inizierà tra circa 6 mesi. Simonetta Cheli, del direttorato dell'ESA per l'osservazione della Terra. È il quarto satellite meteo second generation, è stato lanciato stanotte. È il quarto di una serie, è il primo lanciato nel 2002, di satelliti meteorologici che servono soprattutto allo studio della chimica dell'atmosfera, delle nuvole, e chiaramente ci aiutano a predire il clima e quindi anche a prevedere situazioni come quelle di temporali e uragani. Satelliti che vediamo, di cui vediamo le immagini tutti i giorni in televisione, sono molto utili anche per aiutare non solo chi viaggia, ad esempio le situazioni collegate a traffico aereo, ma anche chi si muove e anche chi deve prevedere coltivazioni o questioni collegate all'agricoltura. Appena ci sarà, e se ci sarà, un disfunzionamento su quelli precedenti, verrà attivato questo quarto satellite che comunque deve collegare un gap con la generazione futura. Abbiamo immagini dal satellite ogni 30 minuti e in questo momento il satellite viene messo in storage, quindi in aspettativa in orbita, e verrà attivato appena sarà necessario. È tutto, un saluto da Anna Marino, appuntamento con Effetto Notte. Europa 24. collaborazione con Euronet Plus.